La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Non ne posso più, non ne posso più di quelli che mi scrivono sulla pagina della bella estate. Ma come si chiama la sigla? L'ho messo 2000 volte, il link al video di questo cantante, non mi ricordo più, finlandese, norvegese, non me lo ricordo più. Tornate, andate giù, scavate dentro la bacheca nella pagina e la troverete. Sento le onde del mare, ma le onde del mare oggi non devono esserci. Oggi andiamo in montagna. Io in realtà volevo partire subito per la Libia perché ho sentito che c'è una taglia di $1.600.000 e scusate, mi conviene forse anche andare a farci un pensierino. Vieni con me, Viola? Sì, eccoci, uno lo prende da una parte, uno dall'altra e dividiamo a metà. Oggi si va in montagna perché basta parlare di mare. Perché ogni volta che bisogna parlare di vacanze, tac, appare l'icona. Un tempo era l'asdraio, adesso no, basta, l'asdraio per carità. Se chiudete gli occhi e pensate vacanze, ecco che appaiono due palme, sempre le solite, mezze storte, e una spiaggetta tropicale tristissima, vuota, dove non c'è niente, nulla, però vogliono andare tutti lì. Sempre io vedo negli uffici queste foto proprio attaccate al computer e sottoscritto lasciateci sognare, ma sogna, però vai lì dopo due giorni, ti ammazzi, ti suicidi, torni indietro implorando un tram in ritardo, qualunque cosa. Oggi si va in montagna, ma non la solita montagna, non aspettatevi canti alpini, non aspettatevi soprattutto ospiti del Trentino che vengono a dirci la montagna vuoi rispettato, la montagna ti rispetta, no, niente, oggi saremo completamente diversi. Cos'hai da guardarmi in quel modo strano? Non era un accento trentino perfetto, era più bergamasco, ma non sono capace di fare nulla. Vi regalo subito una canzone montana. No, non è impazzita Elisabetta Viviani, non ha così avuto una crisi mistica. Queste sono Gitti und Erika, due penso sorelle, non lo so, che cantavano la sigla originale di Heidi in tedesco. Gitti, fra l'altro, ha anche inciso ultimamente un CD dedicato a Papa Ratzinger che si chiama Du bist das Licht, tu sei la luce. Vi lascio immaginare cosa non c'è dentro, un giorno ve lo farò sentire tutto, proprio dall'inizio alla fine. Molto in là, non spaventatevi. Allora, Heidi, stamattina preparando la pagina della bella estate su Facebook, io faccio sempre il riassuntino di quello che vi aspetta, e ho cercato una foto Heidi. Mi è apparsa una signorina abbastanza avvenente, con anche insomma questo seno. Guarda com'è cresciuta, l'aria di montagna fa bene. Era Heidi Klum, l'ho messa comunque lo stesso, per cui se volete vedere Heidi Klum in uno dei suoi migliori vestiti, passate sulla nostra bacheca. Invece 800 24 00 24 per raccontare a me e a tutti gli altri e tutte le vostre avventure in montagna. Avete fatto lo stambecco? Avete fatto, non so, avete scalato il Cervino? Qualunque cosa voi abbiate fatto, mi raccomando, ma che abbia a che fare con la montagna. 800 24 00 24. Anche se avete litigato con la moglie, come viene sempre nelle barzellette più vecchie, c'è sempre lui che litiga con lei, lei vuole andare al mare, lui vuole andare in montagna, ma esiste veramente questo litigio o no? Non si sa. Ah sì, è vero, la puntata di oggi si chiama Ho voglia di Zeno Colò. Perché? Perché Zeno Colò, ricorderete benissimo, grande scalatore e così via. Ma c'è un pezzettino dal film Totò a colori, il primo film a colori mai girato in Italia, infatti si vede perché è una fantasmagoria di tinte. C'è Franca Valeri che fa la signorina snob, che dice una frase che mi è rimasta molto impressa. Del resto, guarda, io sono stufa, rotta, morta, pezzi non ne posso più. Io parto, ecco, me ne vado. Sì, ho deciso, sono satura di salsedini, di faraglioni. Ho voglia di Dolomiti, di uomini alpestri, di grappa, di Zeno Colò. Ecco. Ma sei. Ecco, ho voglia di grappa, di Zeno Colò, di cos'è, uomini alpestri, cos'è che diceva? Non me lo ricordo neanche più, che memoria, che ho la memoria del pesce rosso, 6 secondi e poi cancella tutto. Però non avrò memoria, ma ho una tortuosità mentale nello scegliere i pezzi musicali, pur di non avere i canti alpini, Mina che canta neve. Beh, la neve è montagna, e d'altronde molti di voi magari in montagna ci vanno soltanto d'inverno, per la famigerata settimana bianca, caricano gli sci, il dopo sci, il dopo sole, e naturalmente vanno su, si siedono e non sciano mai. mai, o al massimo raccontano delle balle stratosferiche, delle vere e proprie allucinazioni competitive. Fantozzi fu colto da allucinazioni competitive. Io sono stato azzurro di sci. Eh? Io sono stato della nazionale di sci. E lo dice così, ma ha sentito Calboni, eh? Che bravo. Sì, vedremo, ce lo dimostrerà. Veramente sono 10 anni che non scio. Eh? Come? Dicevo che saranno 20 anni che non scio. Cosa? Parli forte, non si capisce. Sto dicendo che saranno 30, 35 anni che non vedo un paio di sci. Ecco qua, per entrare in atmosfera ho messo l'aria condizionata al massimo e sto anche un po' tremando nello studio oggi, ma voglio ricreare l'atmosfera montana, non solo con questi meravigliosi yodel che vi faccio sentire. Questo è Franz Lang, pare sia un divo dello yodel. In Sicilia lo apprezzano tutti, lo seguono, comprano tutti i suoi dischi. Allora, abbiamo sentito Fantozzi che minacciava propositi sportivi, ma quante bugie si raccontano in montagna? Tutti pensano di conoscere la montagna. Vi faccio un piccolo esempio. Anche il geometra Calboni pensa di conoscere la montagna. Cos'è quel piccolo lassù? Quale? Quello lassù. Ah, quello lì, quello è il dente del giudizio. Ah, sì. Non lo riconoscevo. Non lo riconosceva perché appunto era il dente del gigante, però l'importante è fingere di sapere. Adesso vorrei una buona base di quelle proprio che mi ispirano la lettura, perché voglio leggere una cosa, insomma. Ve lo dico subito, è autopromozione, è un testo che ho scritto per un giornale, ma d'altronde ho sentito, venite vicino alla radio, siamo soltanto noi, ho sentito che anche Barbara Alberti lo fa spessissimo, legge le sue cose, leggo anch'io le mie, perché io no? Ecco, tempo fa, eccolo qui, Mauro Corona, il famoso montanaro dell'editoria italiana, minacciò alcuni miei colleghi di un quotidiano di rovinargli le mani, spaccargliele perché avevano scritto una cosina. E lui, sai, lui è un montanaro rude. E allora io risposi a Mauro Corona così. Caro Mauro Corona, non saprò andare a caccia di caprioli e ne sono fiero. Non riconosco le impronte della marmotta, ma sono una pellaccia. Sono nato a Milano, cresciuto respirando a pieni polmoni smog potente in un tempo in cui il Duomo era nero per la fuliggine delle grandi fabbriche. Ho affinato il mio olfatto a tal punto che oggi riesco a percepire l'arrivo della primavera nella variazione del gas di scarico. Riesco a prendere un tram in corsa un attimo prima che chiudano le porte. Mi muovo nei cunicoli della metropolitana con l'abilità di una talpa. Riesco a schivare con agilità insospettata squadre di venditori senegalesi di libri terzomondisti, tipo il Papamondo, ecco. Ho bevuto acqua al cloro, mangiato nelle refezioni scolastiche, sfidato nubi di diossina, insomma, sono una specie di cyborg. Provi lei, Mauro Corona, a fare tutto questo, altro che ho scalato i 6.000, ho scalato i 7.000, ho scalato gli 8.000. Basta mettersi una bandana in testa, un po' di barbetta e tutti diventiamo post-montanari in TV. Poi dal vivo non si sa. C'è già il primo ospite, ma bisogna introdurlo con la musica adatta. Che bel weekend abbiamo passato in montagna, senza le donne, senza la TV. Vini giganti su scarpate lavagna, se c'è dell'altro amico dillo tu. Le facce rosse per il sole ed i mirtilli le labbra blu. C'è tutto quello che si può fare in montagna per farsi insomma prendere un po' in giro. Marco Ferradini, pronto? Pronto, eccomi qua. Eccolo qui, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Marco Ferradini è colui che stava cantando questa canzone Weekend, che a me piace molto perché è una canzone narrativa, racconta una storia che comincia e che finisce. Ed è la storia di due persone di città che vanno a farsi il weekend in montagna, ma è una storia vera. È una storia verissima, risale esattamente al 1980, quando io ed Herbert Pagani, che di cui magari riusciremo a accennare qualcosa dopo. Ma volentieri. Ecco, facevo questo viaggio in montagna perché io avevo scritto delle musiche e avevo bisogno di testi. E allora il modo migliore per lavorare era andarcene insieme in montagna, lui scriveva dei testi bellissimi. E lì abbiamo scritto alcuni dei brani che poi mi ha portato al successo, tra i quali appunto c'è questo weekend in montagna che è esattamente la descrizione di quei momenti che stavamo vivendo, perché di giorno eravamo due uomini senza donne perché in quel momento eravamo stati ambedue mollati dalle nostre relative femminucce e ci trovavamo in montagna a camminare finché era giorno, era perfetto, era bello perché c'era il paesaggio, c'era l'ossigeno, i mirtilli da raccogliere, sì. C'era tutto bello positivo, insomma. Ma poi una volta che arrivava la sera e ci rinchiudevamo in questo bellissimo chalet tutto di legno, la malinconia ci assaliva e allora immaginavamo che che il fuoco facesse delle nostre ombre, le ombre delle donne che non c'erano praticamente. No? Una tristezza infinita. Però è anche tragicomica se pensi si inizia poi che due uomini da soli in montagna, esauriti gli argomenti di rito, visto che gli uomini parlano poco di se stesso, hanno ben poche cose da dire. E quindi noi per fortuna avevamo la chitarra, avevamo questi testi da raccontare, da scrivere e abbiamo scritto questo testo. Non solo questo testo, abbiamo scritto anche Schiavo senza catene, Bicicletta e poi il Teorema, è nata lì in montagna tra quelle bellissime valli. Il paese era Macugnaga in Piemonte. Ah beh sì, Macugnaga, no, è famoso Macugnaga. Ecco, un posto bellissimo e lì avevamo affittato, non io, lui aveva affittato uno chalet tutto di legno, una roba da maghi, una roba... da gnometti, insomma, una cosa fantastica veramente. Però mancava la televisione perché prima la televisione, dite che bello, buoni milanesi abituati a certe comodità ma certe, e ci siamo trovati lì un po' spaesati. Beh, però ti devo dire la verità, io sono nato in montagna, io sono nato in un paesino della Val d'Intelvi, esattamente sopra Como, in un posto bellissimo per me, quindi l'imprinting della montagna io ce l'ho, io potrei essere un Corona a due della Vendetta, insomma. Perché sì, perché sì. Io appena sento odore di bosco come divento un lupo, cioè mi sento perfettamente a mio agio tra le montagne, così poco invece al mare sto malissimo, lo guardo il mare e dico molto bello, ma che cosa ci faccio qui io? Beh, se non è il tuo ambiente. Non è il mio ambiente naturale, so nuotare a malapena, invece la montagna mi apre, ma più che altro mi tranquillizza e mi dà, perché sono nel mio ambiente naturale. Tu pensare al 1980 e sentivate la mancanza della TV, oggi sareste lì disperati col cellulare in mano a cercare di prendere una qualunque connessione? Sì, probabilmente sì. Sarebbe ancora peggio. Erano gli inizi della tecnologia, di quella esasperata che infatti diventa adesso. Sì, sì, quindi, certo. E mi ricordo che siamo partiti con una macchina scassata, avevo una vecchia macchina scassata, però eravamo pieni di voglia di suonare, cioè per noi l'importante non era tanto era la musica, fare musica, era suonare, cantare e scrivere delle cose belle che poi era bello trasmettere al pubblico. La passione era quella, la grossa molla. Ecco. Ecco, hai detto che eri con Herbert Pagani, so che stai facendo qualcosa proprio in ricordo di Herbert Pagani. Sì, sto facendo un lavoro che ormai dura quasi da un anno e mezzo, perché molti mi dicevano ma perché non ritiri fuori tutte le canzoni di Herbert Pagani, quelle che aveva scritto lui, quelle che ha cantato lui più che altro e poi quelle che abbiamo fatto insieme, e io prima sono sempre stato un po' titubante a farlo perché per una questione anche di rispetto, e poi adesso invece ho detto basta, rompiamo gli indugi e mi sono messo in sala insieme ad un arrangiatore che si chiama José Orlando Luciano e abbiamo realizzato questo doppio CD, diciamo che dovrebbe uscire in settembre, con tutti i brani di Herbert Pagani e quelli fatti da lui a suo tempo e con i miei, quelli che abbiamo scritto insieme, esattamente sono 21 brani, tutti in versione acustica con quartetto d'archi, mandolino, pianoforte, chitarre, pochissimi altri strumenti. In più abbiamo coinvolto degli artisti, degli amici tipo Finardi, Moni Ovadia, Alberto Fortis, Fabio Concato, Ron, e ci hanno dato una mano, ognuno ha cantato con me un pezzo, quindi, e poi c'è anche Charlotte che è una cantante molto brava, giovanissima ma veramente molto brava, insomma diciamo che abbiamo ricreato un pezzo di quegli anni per ricordare un artista grandissimo secondo me, che non è stato apprezzato e che non è stato valutato e che secondo me grazie a questo disco spero tutti possano capire la grandezza del suo scrivere, perché lui non scriveva canzoni, lui scriveva poesie e le canzoni poi la musica la chiedeva ad un altro, ecco. Bene, allora dovremmo dire grazie anche a te che ci fai riscoprire Herbert Pagani, chi alla metà se lo ricorda benissimo. Gli altri no magari. Beh certo, ricordiamo solamente brevemente due brani famosi che erano Cin Cin con gli occhiali, che sembrava una canzone banale invece non lo era per non niente, lo era. E poi una canzone famosissima che era Il Bergadore. Sì, infatti. Esatto, poi Lombardia. Poi no, io ricordo anche Aile Hawaii, guarda. Ecco, quello non la facciamo perché secondo me è un po' una cretinata. Però me la ricordo, ero piccolo e me la ricordavo. Ecco. comunque niente, poi da questo disco naturalmente ci sarà uno spettacolo teatrale che porterò in giro tutta Italia, dove appunto racconterò la sua storia insieme a un paio di attori e sempre in versione acustica, quindi la sua storia, le sue canzoni e più che altro ricordare questa grande figura e rimetterla in gioco, insomma. Va bene, grazie Marco, grazie anche per averci regalato questo racconto del tuo weekend in montagna. Prego, ricordatevi che la montagna è il posto secondo me più bello del mondo, perché lì si ritorna veramente bambini, le va fate bene. E gli gnomi in mezzo ai boschi. Grazie Marco, ciao. Sto ridendo perché dalla regia mi scrivono le comunicazioni su un monitor e di solito scrivono borsa per dirmi a che ora parte il collegamento con la borsa, e oggi, già ubriaca di grappa, Viola ha scritto brosa, la famosa brosa, che è un liquore che si mangia, si beve in montagna. Ma gli errori li facciamo tutti, io compreso. Prima nella foga stavo già pensando a Corona, ho detto che Zenocolò è uno scalatore, invece è uno sciatore, mi dice Stefano, precisando che è anche uno sciatore toscano della Betone, beh, famosissimo, e io ho detto scalatore perché avevo già in mente la bandana di Corona. Questa musica è montana secondo voi? Ma naturalmente sì. Vi ricorda qualcosa, soprattutto come al solito i più vecchi? Ma naturalmente sì, vi ricorda questo. La grappa Bocchino la trovi sempre più in alto, concludendo. È un famoso spot con Mike Buongiorno, che era abbarbicato sul Cervino, lo portavano su un elicottero senza usare video finti, computer, controfigure, ci andava lui. Una volta l'elicottero fece bene in tempo a depositarlo, scoppiò una tempesta, l'elicottero dovette tornare a terra e Mike rimase 3 ore attaccato a questa cima del Cervino, impassibile, perché praticamente era il vero cyber, era lui. Valeria della provincia di Pavia, pronto? Pronto. Oh Valeria, ciao. Ciao. Tu mi chiami dalla provincia di Pavia, che è la zona, se togliamo il colle dell'Oltrepò, è una zona piattissima, proprio non c'è un rilievo. E cosa hai fatto? Sei stata in montagna per sfogarti? No, perché io amo la montagna, per me l'estate è montagna. Ah, e quindi tutti gli anni vai in montagna? Sì, sì, sì. Anche se devo dire quest'anno ho fatto una variante anche una settimana al mare, però che ho apprezzato, eh. Ecco. Però come diceva il ragazzo di prima, sì, montagna... Marco Ferradini, sì. Sì, il ragazzo di prima. Ti ringrazierà tantissimo perché l'hai chiamato ragazzo, ti ringrazierà molto. Vabbè, la voce era molto giovanile, quindi ci sta. No, niente, ho telefonato per raccontare questa esperienza che ho fatto 4 anni fa. Sì. Che avevamo accompagnato un gruppo di ragazzi di oratorio in montagna, no? E insomma, erano le uniche ferie che avevo, quindi bramoso di arrivare a questa settimana di ferie. Mi rompo il terzo dito del piede 2 giorni prima di partire. Il terzo, che poi sarebbe quello centrale, per cui da una parte all'altra, esatto. Sempre il terzo, sì, perfetto. Cioè, quindi ero proprio arrabbiatissima, ho detto non è possibile, con mia madre che mi diceva no, adesso starai a casa, non devi partire. E invece ho deciso di far bagagli lo stesso e sono riuscita a scalare il Cervino con un paio di infradito nei piedi. No, scusa, questa sei... peggio di Mike Buongiorno. Te lo giuro, infatti adesso non avevo mai sentito la pubblicità di Mike Buongiorno, ma mi sono sentita un po' come dire affine a lui. Un po' come lui, barbicato, sì. Al Cervino praticamente. Infatti, vabbè, nel senso, avevo i miei angeli custodi di fianco che non mi lasciavano un attimo, perché non è che ero da sola, però... Ma scusa, angeli custodi reali oppure anche tu sei un po' new age e vedi le cose che non no, ci no. sono? No, reali. No, reali. Ah, reali, reali. Sì, sì. Non si sa mai, anche l'altitudine a volte fa degli scherzi. No, la grappa. Il cambio di pressione. No, infatti. No, no, però ecco, è stato... Quando sono arrivata in alto ho detto, ce l'ho fatta. E poi, piangendo, sei tornata giù. Diciamo che la discesa è stata un po' più difficile, però sono arrivata a terra, il mio dito è guarito e da lì in poi ho viaggiato tutti gli anni in montagne diverse, però quella diciamo che mi rimarrà nel cuore tutta la vita, credo. Sei mai stata sulle Alpi Bavaresi? No. No, bene, allora le Alpi Bavaresi sono ormai un topos tipico di chi pensa alla montagna, e tempo fa c'era un altro spot che possiamo far sentire benissimo perché tanto il prodotto è stato cancellato, radioattivo, non so cosa fosse, era un formaggino, pensate, chi pensa ai formaggini come fa a pensare alla montagna? Eppure negli anni 70 si faceva. Ramek è il buon formaggio che viene dalla Baviera. Ramek è tutto latte e panna. Boio. E noi guardavamo questi caroselli così allucinati da queste mucche che scalavano le montagne, queste vestite da rendesine ma spacciate per bavaresi. Era molto divertente. Pronto, Francesco? Sì, ciao Tommaso, ciao. Ciao, ma tu te la ricordavi questa pubblicità del formaggino bavarese? Io purtroppo ho gli anni giusti e ricordo anche questa pubblicità. Sì, ahimè, sì, ahimè noi, ahi noi. Purtroppo sì. Dimmi, sei stato in montagna? Io sono un fan della montagna perché in montagna vado per cercare i funghi. Ah, quindi non è proprio montagna tipo Cervino, perché sul Cervino non so. Assolutamente, se... no, io non i muschi e il cheni. Non a fare queste faticacce, scalare, per carità, eccetera. Ma per carità. Io posso solo passeggiare tranquillamente con la mia bella panciona in giro per prati, sotto qualche albero e con un po' di fortuna trovare qualche bel funghetto da mangiare la sera con un po' di polenta o in un bel risotto, però è una grande passione e poi serve per prendere in giro gli amici che se ne stanno a oziare sul prato a fare il picnic, tu dici vai a fare quattro passi, trovi anche quei bei funghi e dici ah vi ho fregato, voi qui a pichellonare, io invece che sono un tipo attivo vado anche a prendere i funghi. Senti, il fatto che tu sia qui a raccontarci queste storie significa che sei un esperto di funghi, perché altrimenti sai, uno non sa mai che fungo trova. Guarda, ti posso dire sì per darmi delle arie, in realtà poi quando ho capito di avere a che fare con quei 3-4 funghi commestibili, per me basta e avanza, il resto purtroppo lo lascio nei prati per cercatori più esperti di me. Ah, senti Francesco, per chiudere, qual è il fungo più quotato? Sono sempre i porcini, gli ovoli, questi due insomma i più buoni, ma io sono di bocca buona, mi accontento di piccoli finferli molto meno pregiati ma che danno un buon risultato lo stesso nel risottino che mi faccio la sera. Guarda, piacciono anche al Mauro il regista perché sta sorridendo solo al pensiero del risottino con i finferli. Adesso sentiamo dalla borsa come si sono quotati oggi i funghi. A dopo. La bella estate. Vi state domandando cosa c'entra questa canzone con la montagna? Beh, vuol dire che non guardate i video, perché nel video lei, vestita da maschietto, spingeva col papà questo macchinario strano lù su per l'erta di una montagna e quindi tutto torna. Ma voi siete banali, vi aspettavate che cosa? Sul cappello che noi portiamo, sul cucuzzolo della montagna? Ma non qui, ma figuriamoci. Dobbiamo essere sempre quelli che si fanno riconoscere. C'è Carlo da Trieste in linea. Pronto Carlo? Pronto, grazie. Ciao. Buonasera. Io volevo condividere con voi un'esperienza di quest'estate. Io sono un amante della montagna, in particolare delle Alpi Marittime, che sono diciamo la parte più a sud della provincia di Cuneo. Ecco, sì, vai proprio dall'altra parte rispetto al luogo in cui abiti tu. Infatti quando vado alla Trieste dico che faccio il coast to coast, no? Cioè sì, da un confine all'altro. E quest'anno mi sono imbattuto in un'esperienza veramente positiva, perché io, anche per motivi di età, ma insomma non è che vado molto bene in bicicletta, però sono stato coinvolto in una cosa così fatta. Una mattina di domenica con la mia bicicletta mi hanno preso da Borgo San Dalmazzo, che è vicino a Cuneo, comunque il pullman partiva da Cuneo, me e la bicicletta, mi hanno portato in cima al Colle della Maddalena e mi sono fatto poi in discesa tutta la Valle Stura, che è stata un'esperienza veramente notevolissima, perché come la vedi in bicicletta, sono quasi 70 km di valle. Tutto in discesa? Tutta in discesa, fattibilissima. Direi in discesa. Stupenda, ci si può fermare per fare le foto. Ho visto per esempio il paese della Stefania Belmondo, che si chiama Ponte Bernardo, che è un posto che se non ci vai apposta e anche in bicicletta non riesci a vederlo, perché in macchina la strada passa lontana. Mi sono trovato, soprattutto la parte alta, in mezzo alle marmotte, e siccome la bicicletta non fa rumore, queste non si spaventavano, e io facendo i tornanti giù dal Colle della Maddalena come quasi un ciclista vero, le riuscivo a vedere prima dall'alto e poi dal basso, cioè è stata una cosa veramente bella, di cui tra l'altro devo ringraziare la comunità montana. Lì mi sono informato e so che hanno dei fondi abbastanza poco, tant'è vero che poi volevo farlo tutte le domeniche, ma alcune volte hanno mancanza di personale. Però, sai com'è, dopo il famoso libro, le comunità montane hanno cominciato a essere un po' così, perché non tutte sono veramente montane, come saprai. Vabbè, quella lo è, perché è in montagna. Certo, no, questa è montana, cioè arrivo con la Maddalena, sono 2000 metri. Appunto, sono in montagna. E pensavo anche che, per esempio, io dalla zona da cui partivo, io parto da Borgo San Dalmazzo, che è all'incrocio tra tre valli, la Valle Gessa, la Valle Stura e la Valle Vermenagna, per dirvi posti, cioè Valle Vermenagna è quella di Limone, Piemonte, la Valle Gessa è quella di Valdieri, Entracque, dove andava il re a fare le sue vacanze quando in Italia c'era la monarchia, e poi la Valle Stura è questa qua di De Monte, di Nadia, di questi posti qui. E, ecco, pensavo ci fosse lo stesso servizio, non so, che mi porta sul Colle della Fauniera, questi colli che tu vedi al Giro d'Italia, no? Sì. A parte il fatto che se uno ha un rampichino, poi di lì. Ma sai, Carlo, dovresti anche cominciare a farla nel senso opposto, anche qualche salitella, magari. Ah, sì, ma difatti dico, avendo un rampichino, una volta che uno ti porta a 2000 metri, per esempio lì dove sono stato io, con la Maddalena, subito dietro c'è il Parco del Mercantour, che è in Francia, ecco, comunque è proprio lì. E si possono fare dei giri meravigliosi in altura, ecco. Quindi tu consigli a tutti di fare questa cosa, ma cioè, guardate, a chi può. È una cosa veramente, e tra l'altro, e poi io, come sentite forse dall'accento, sono di origine genovese, costo 5 euro ecco, per andare fin su. Quindi conviene anche, tu dici, non è un importo improponibile. No, accettabilissimo e fattibilissimo, e tra l'altro mi sono trovato con un'altra persona che, e tutti noi pensavamo che tutto sommato la cosa è poco pubblicizzata, perché merita veramente. Vabbè, l'abbiamo un po' pubblicizzata noi. Sono molto contento, intanto grazie a Carlo, sono molto contento che non chiama nessuno per dirmi sono stato sui monti dell'Himalaya col monopattino, con tutte queste cose strane. Ecco, belle cose, molto particolari e originali. Zero, il sole è stanco, addormentato sopra questo mondo. Uno è un nodo al collo, un passo indietro, quello che non so. Solita domanda che vi state facendo mentre siete lì che guidate o stirate o non so cosa state facendo: perché Delta V con numeri in mia vita? Perché il video era ambientato su un treno che passava attraverso le montagne. Insomma, non posso mettervi sul cappello che noi portiamo, basta. Tant'è vero che anche per la scelta degli ospiti sono andato, ma che quale sentiero di montagna in quanto tortuosità, ancora di più. Ho al telefono Pino Campagna. Pronto, Pino? Ciao Tommaso, buongiorno a tutti. Non so cosa c'entra campagna con montagna. Ma è quello il bello. Allora, tu ti chiami Campagna, sei nato abbastanza vicino al mare, chi può parlare della montagna se non tu? Poi sei nato a Foggia. Esatto. E nel tavoliere non c'è un monte. Sì, ma infatti, pur essendo nato a Foggia e quindi in mezzo alle spighe di grano, capisci? Sì. E per me era come fare il sommozzatore a Bolzano, capisci? Giusto per usare un parametro, certo. Quando ero piccolo dicevo a mia madre: io da grande vorrei fare l'alpino, perché mi affascinava, insomma, capisci, insomma, sì. Proprio il mondo dell'alpinismo. C'è una cosa che non ti apparteneva, che non vedevi non mai. Non mi apparteneva, ma dove avrei dovuto arrampicarmi? Sulle spighe di grano o sui campi di pomodori? Cioè, non lo so. Quindi, per cui, sono stato sempre affascinato, fin da piccolo, da questo mondo dell'alpinismo, che non ho mai fatto, non ho mai praticato, però è rimasta come una cosa memory in me, capisci? Che io, un giorno o l'altro, devo togliermi questo sfizio, anche se devo venirmi in soccorso a 5. Beh, comunque provi, dai. Delle montagne. Però io da grande dicevo: mamma, io vorrei fare l'alpino. E lei mi diceva, il foggiano, che devi fare tu l'alpina. Dice: come fai di cognome? Io dico: io Campagna. Alla zappa alla terra devi andare, mi diceva. Quindi per cui mi faccio questo riferimento come battuta. Però io i canti degli alpini li trovo di un'allegria devastante. Ma come, sono tristissimi, fanno piangere, no, parlano sempre i morti. No, ma scusa Tommaso, lo dico anche nelle mie serate, nei miei show che faccio, che tra poco ho finito la tournée che mi ha portato in giro per l'Italia, e c'era questo pezzo che io parlo, dico: come mai i canti degli alpini sono così tristi? No, ma proprio per un senso comico, per me sono di un'allegria devastante, oltre al fascino dei cori che si intrecciano, ma proprio dei testi che sono secchiati di criticità e tonnellate. Ad esempio, il capitano della compagnia si è ferito e sta per morire e manda dire ai suoi alpini che lo vengono a ritrovare, no? Allora, i suoi alpini vanno, giustamente, questo mitico canto bellissimo, meraviglioso, e cosa fa? Dice, ma guarda, io ho qua il mio corpo, il primo pezzo lo do alla mia mamma, il secondo al battaglione, il terzo pezzo a Re d'Italia, il quarto pezzo alle montagne che fioriscono di stelle fior, si è dimenticato l'ultimo pezzo a Tremonti, per risanare l'economia in Italia, ci poteva pure stare, insomma. D'altronde, beh, ma scusa, ma non ti sembra una cosa un po' splatter? Cioè, questo che viene diviso in pezzi e sbrindellato per l'intera nazione, dai. Preso spunto da questo canto che io lo trovo affascinante, di una tristezza unica, per poter far capire quanto sia bello anche il canto alpino. Ecco, avrei voluto anche fare questo, avrei voluto fare diverse cose in montagna, ma quello che mi affascina delle montagne non sono le montagne in sé per sé, ma quello che le montagne contengono, per esempio i boschi, la fauna, la selvaggina. No, giorni fa ero sul Monte Faeto in provincia di Foggia, ero lì in torneo e ho intravisto un capriolo e gli sono corso dietro fino a che non ho incontrato la madre che veniva portata a spalla da un cacciatore. Lì ho capito dove inizia la caccia e dove finisce la stupidità dell'essere umano, capito? Beh, guarda, la caccia per me non comincia neanche, cioè finisce molto prima, cioè. Ma veramente hai visto questa cosa? È tristissima questa cosa. Ma scusami, possono... se ho detto questa cosa. No, perché anzi è giusto, così sanno che c'è gente che si diverte in questo modo. Non so come. Quale discorso, Tommaso? Cioè, voglio dire, ma perché rovinare? Cioè, dalla montagna non mi fanno paura le altitudini, la stupidità della gente che continua a gettare le carte per boschi, le mire, distruggere giorno per giorno il potenziale verde che abbiamo. Ma non ti rende un po', non lo so, a me mi rende nervoso questa roba qua. No, guarda, oltre il nervosismo, poi dicono che sono cattivo e comincio subito a minacciare, però insomma certa gente, cioè, approfittando degli alberi basterebbe un po' di corda e vabbè, stiamo zitti. Senti, vabbè, comunque, ma tu sei stato anche con la tua tournée in luoghi di montagna? Sicuramente sono stato in Irpinia, sono stato ultimamente te l'ho detto, sul Monte Faeto, sul Gargano, che è qualcosa di eccezionale. Poi specialmente Vieste, come tu sai, è una cittadina pugliese che ha proprio la montagna, si tuffa nel mare, cioè è una roba che io non so se in quale posto del mondo ci sia una roba del genere, ma proprio c'è la montagna che si tuffa a mare, c'è una simbiosi, è quasi come una linea di demarcazione dell'orizzonte, dove finisce il cielo e dove comincia il mare, è una linea poetica. Ecco, dico, abbiamo scoperto un Pino Campagna poeta oggi. No, dai, veramente, guarda, non esageriamo. No, perché veramente abbiamo scoperto che è un ecologista che ama la natura e che è anche poeta. Beh, grazie, sai cosa faccio, Pino? Voglio aiutarti a diventare ancora più appassionato della montagna, ti faccio sentire una canzone che fa lo yodel. Grande successo, intanto grazie a Pino Campagna che ci ha divertiti con questo intervento. Dopo il grande successo del video finlandese che so che molti hanno visto sulla bacheca della bella estate, oggi vi regalerò questo video delle Geschwister Hoffmann, due sorelline altoatesine che cantano vestite in maniera un po' folcloristica e suonano di tutto, trombe, tamburi, pifferi, qualunque cosa. Massimo da Como, pronto? Sì, ciao Tommaso. Ciao Massimo. Ciao, dimmi. Io ho appena sentito parlare di montagna, anche se non ho grandi cose da dire, però ho detto devo chiamare. Io sono uno skyrunner, sono un corridore di montagna praticamente, e mi alleno sul Monte Generoso in Svizzera, in mezzo ai camosci, perché lì c'è una grossa colonia di camosci ed è bellissimo, e nella fatica di tutto quanto, quando arrivi in montagna su in cima e poi scendi, è veramente favoloso, insomma. Quindi oggi abbiamo trovato veramente un sacco di entusiasti della montagna, gente che direbbe non andrei mai al mare, ma tu al mare ci vai? No, io ci vado per rispetto della famiglia e dei figli di mia moglie, però per il fatto che anche loro, quando io faccio le corse e le gare alla domenica, loro mi seguono quasi sempre, quindi è chiaro che il mare a me mi piace, una settimana però è più che sufficiente, insomma, però ci sono in montagna praticamente tutto l'anno, quindi... Ma non, che... non fate le litigate come nelle barzellette di cui dicevo prima, cioè lei vuole andare al mare, lui vuole andare in montagna, si picchiano, no? No, anzi, però io sono sempre in debito con loro, perché sono loro che seguono me, quindi devo accontentarli, insomma. Ma che brava persona. Ma senti, ma questa cosa che tu fai correndo in montagna, la fai anche in salita? No, è in salita. No, è perché assolutamente prima, in salita. Prima c'era l'ascoltatore che andava in bicicletta, ma in discesa. Tu invece vai anche in salita. No, no, è in salita. Ci sono dei dislivelli positivi, magari di 2000 metri, 2500 metri, e poi altri negativi altrettanti per tornare magari nello stesso punto. Ci sono gare di campionato del mondo, campionato italiano. Quest'anno ho fatto una gara di campionato italiano, una di campionato del mondo. È uno sport che sta crescendo, come sta crescendo la corsa in generale. Però è veramente favoloso quello della montagna, perché c'è la salute in montagna, c'è la fatica, c'è la soddisfazione di arrivare in cima. C'è, insomma, ci sono tante cose. Senti, per chiudere, tu sai fare lo yodel, no? Scusa? Sai fare lo yodel? Non so neanche cos'è. Vabbè, fa niente, grazie lo stesso. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, scendiamo in pianura, abbiamo finito anche oggi la montagna, la ritroveremo prima o poi. Domani invece parleremo di cattiverie, bugiardo e incosciente è il tema della puntata di domani. Grazie a Mauro De Angeli, grazie a Vela Bottoni e a tutti voi. Beh, come yodel era veramente terribile. Ciao.